Letture di Radio 24. Quali sono le ragioni che spingono alcune persone a fuggire da lusso e vistosità? Sulle pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, Giuseppe Scaraffia traccia un elogio della sobrietà, partendo dagli esempi di chi, come Lawrence o Fitzgerald, ha fatto dello stile dimesso la propria filosofia di vita. Da sine ebrius, ubriaco, a sofron, sano di mente, savio, sono varie le ipotesi sull'etimologia del termine. La Treccani suggerisce temperante nel bere e nel mangiare e in generale nei piaceri. Certo, la sobrietà è uno stile che si basa sulla rinuncia al lusso e alla vistosità, ma rimane pur sempre uno stile che, come ogni altro, ha bisogno di investimenti che potrebbero contribuire a rilanciare l'economia. Difficile, infatti, ritenere sobrio chi si presentasse sempre con lo stesso vestito griffato. In Eugénie Grandet, Balzac racconta la storia di un dandy parigino che, dopo il fallimento del padre, decide di fare fortuna all'estero. Prima di partire, vende i suoi lussuosi abiti e gli oggetti preziosi per adottare una programmatica redingote nera di stoffa grossolana. I colori scuri sono importanti per la sobrietà perché sono adatti anche ai momenti più gravi. Nell'Assemblea degli Stati Generali, prima della Rivoluzione Francese, bastava, per intuire la situazione, limitarsi ai colori degli abiti. Il nero della borghesia contrastava minacciosamente con le tinte vivaci dell'aristocrazia e il rosso dell'alto clero. Certo, non bisogna esagerare, come il giovane Tolstoi che, in un accesso di odio per la frivolezza cittadina, si era ritirato in campagna. Per inaugurare la nuova vita, si era fatto fare un pesante pastrano di tela grezza, con falde così lunghe che poteva avvolgervisi per dormire la notte o per sonnecchiare in giardino, usando un dizionario per cuscino. La vera ragione, sostiene Giono, rifugge da ogni estremismo e bisogna essere saggi con sobrietà. La sobrietà non esclude l'eleganza. Dopo la crisi del 29, Scott Fitzgerald aveva abdicato ai costosi completi su misura di Brooks Brothers per sommesse giacche sportive. Graham Greene poteva portare con stile una vecchia giacca di tweed con un rammendo ben visibile e i polsi rinforzati da una striscia di cuoio. La pulizia è un elemento essenziale della sobrietà. Chi ha ridotto il numero degli oggetti indispensabili deve tenerli con cura. Il piccolo cottage, arredato con la massima semplicità da David Herbert Lawrence, era sempre pulitissimo. L'autore di Lady Chatterley viveva parcamente e diceva che anche se fosse diventato ricco avrebbe continuato a vivere così. Non sempre questa delicata virtù sopravvive alle passioni. Prima di incontrare Lola Montes, re Ludwig di Baviera era amato dai sudditi per la sua oculatezza. Pur avendo un ombrello nuovo, continuava a usarne uno vecchio e spelacchiato. Poi aveva cominciato a spendere senza freni. Benjamin Franklin pensava, come Plutarco, che la sobrietà fosse la medicina dell'umanità. Provò per esperimento a vivere di pane e acqua senza diminuire il ritmo di lavoro. La madre, irritata, spiegava agli amici perplessi: «Il fatto è che ha letto un filosofo pazzo, un certo Plutarco. La frugalità però non mortifica il gusto, si limita a raffinarlo». Epicuro, scrive Epitteto, raccomandava di mangiare sempre cibi poveri come l'orzo, per poi poter gustare pienamente le prelibatezze delle tavole cui si viene invitati. La povertà non sempre è una garanzia di sobrietà. Il bohemien non è e non vuole essere sobrio. Il nipote di Rameau, di Diderot, era insofferente all'austerità fiscale allora vigente in Francia e culminata in una dura patrimoniale. «Bastoneremo sulla schiena e sulla pancia tutti i piccoli catoni come voi, che ci disprezzano per invidia, nei quali la modestia è solo una maschera dell'orgoglio e la sobrietà soltanto la legge del bisogno». Nei difficili anni 30, Freud aveva smesso di farsi fare vestiti nuovi nei solidi tessuti inglesi, che prediligeva per la loro resistenza. Ancora più parco, Nietzsche portava abiti lisi e fuori moda, ma scrupolosamente puliti e in ordine. Però quando gli era arrivato il commento di un'aristocratica, stupita dalla sua generosità in una colletta, il professore avrebbe fatto meglio a comprarsi una giacca più moderna, si era infuriato. «Non permetto che le signore si occupino delle mie faccende private». Tuttavia, qualche tempo dopo, a Torino, i freni inibitori si erano allentati e aveva acquistato un abito elegante che cade alla perfezione. Come se non bastasse, aveva ringraziato la madre per la gioia irrefrenabile suscitata da un suo regalo. Il lusso della cravatta supera tutto quello che ho visto a Torino. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Giuseppe Scaraffia dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi. Dopo la generazione X arrivano i millennials. Sono i giovani sotto i 29 anni che da una parte si sentono traditi dai predecessori, dall'altra mostrano di essere ancora legati ai valori tradizionali, come dimostrano i risultati di un'indagine realizzata dalla Loren Consulting. È la generazione che quotidianamente spende più di tutte, ma è anche quella che meno ricorre ai prestiti. È la generazione che dice di informarsi sull'attualità meno di tutte, ma è anche quella che afferma di avere più incertezze nel futuro. È la generazione che ha meno fiducia negli amici, ma è quella che utilizza di più i social network. È la generazione dei millennials italiani, che nell'accezione comunemente definita comprende i giovani e i giovani adulti fino a 29 anni. Una generazione che segna una decisa rottura con quella precedente, la decantata generazione X, gli attuali 30-45 anni. E ha per la maggior parte come genitori i boomers, 46-64 anni, per i nonni i cosiddetti silents, nati prima del 45, quelli che hanno vissuto ai tempi di almeno una delle guerre mondiali. La facilità con cui maneggiano le nuove tecnologie rende i millennials unici agli occhi delle altre generazioni, che per questo tendono a identificarli con computer e telefonini. D'altra parte, in questo campo, non fanno nulla per nascondersi. Quasi la metà di essi oggi possiede uno smartphone e per informarsi la stragrande maggioranza predilige internet. Ma oltre a questo c'è di più. Scanzonati o nichilisti? Come spesso accade, probabilmente la verità sta nel mezzo. Nati con il mito della globalizzazione, ma ben presto ritrovatesi fino al collo nella peggiore crisi finanziaria dal dopoguerra in avanti, i millennials credono un po' meno degli altri, ad esempio, che il difficile andamento dell'economia italiana sia dovuto alla negativa situazione economica globale. Sono consapevoli che i problemi odierni dell'economia italiana, compresa la dilagante disoccupazione, derivano in parte dalla condotta dei loro predecessori, dai quali per questo si sentono collettivamente un po' traditi. Ma allo stesso tempo, personalmente, sono grati alla propria famiglia, alla quale riconoscono il valore educativo. Per i millennials, più che per altre generazioni, l'obiettivo principale di vita è quello di essere dei buoni genitori, oltre all'avere una casa e una carriera di successo. La rivoluzione tecnologica, e dunque l'essere always on, ha battuto i confini tra vita e lavoro, rovesciando il sistema di valori consolidati e facendo interrogare i millennials sul gap che si è formato tra quello che l'economia produce e la qualità di vita personale. Carriera di successo allora non vuol dire diventare famosi, bensì guadagnare molti soldi. Dove per molti, con aspettative quantomeno ridotte, si intende quelli necessari. Una nuova frugalità che rende autoassolvente la spesa totale del proprio reddito e così l'impossibilità, per certi versi quasi considerata un'inutilità, di risparmiare. Anche perché gli stessi millennials assegnano un giudizio estremamente positivo alla situazione finanziaria della propria famiglia, che invece, nella veste dei boomers, tende a non essere così entusiasta della propria condizione. La plurinflazionata società liquida fa sentire tutto il suo peso sulle spalle dei giovani e dei giovani adulti, che così preferiscono vivere nel presente, alla luce di un futuro che in ogni caso non dà certezze. Meglio affidarsi ai valori tradizionali e alle referenze prossimali. Ormai lontani dal misticismo, è rappresentata una forte componente atea e agnostica, sebbene la maggioranza si dichiari cattolica ma non praticante, continuano infatti a credere nell'importanza del ruolo della Chiesa, tra le categorie sociali di cui hanno più fiducia. Nell'epoca di Facebook, in cui si sostiene una causa umanitaria con un click, prende significati diversi anche il loro desiderio di fare qualcosa per gli altri. Tuttavia, è un altro non meglio definito. I millennials rappresentano infatti la categoria che sente meno delle altre l'imperativo sociale del senso civico. La politica si trasforma in appartenenza e tifo da stadio? Loro non vanno a votare. Il volontariato, seppur apprezzato per i suoi risultati comunitari, contiene una forma di edonismo che non li riesce a coinvolgere in prima persona. Scanzonati o nichilisti? Probabilmente la definizione migliore è quella di eudemonisti. Eudemonismo è una parola che proviene dall'antica Grecia e letteralmente vuol dire essere con un buon demone, dove il demone rappresenta il genio, lo spirito guida. Secondo Aristotele, gli esseri umani possono raggiungere lo stato di eudaimonia realizzando il proprio potenziale e vivendo in modo virtuoso, l'unica via per sentirsi bene con se stessi. Come i millennials sanno, non c'è un'unica strada verso l'eudaimonia, bensì si tratta di una tensione verso la felicità con le scarse risorse che ciascuno ha a disposizione. Ci si chiede così se i millennials saranno in grado di trasformare il mondo. Ma in realtà è la loro generazione a essersi trasformata rispetto alle precedenti, per seguire o inseguire un mondo che hanno trovato già cambiato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Felice Meoli, Millennials all'italiana, dal numero 66, gennaio 2012, del mensile Formiche. La guerra alla pirateria informatica messa in atto nei giorni scorsi, culminata con la chiusura di Mega Upload da parte dell'FBI, ha scatenato violente reazioni da parte degli hackers. Ma forse, tra le ragioni di chi vende la proprietà intellettuale e chi vorrebbe tutto gratis, esiste una terza via. Chi inventa, produce, vende opere dell'ingegno si aspetta un adeguato corrispettivo per lo sforzo creativo e commerciale sostenuto. Chi invece auspica l'accesso libero a qualsivoglia opportunità di conoscenza si batte per l'assoluta gratuità dei contenuti multimediali, pubblicabili o trasferibili su internet. Le posizioni contrapposte sono granitiche e nessuno vuol recedere o cercare un ragionevole punto di incontro che tenga conto del progresso, della situazione corrente e delle prospettive future. Se i tempi cambiano celermente, non parimenti accade ai meccanismi normativi. Le leggi hanno un lentissimo iter di stesura e approvazione, ma si adattano a mutamenti copernicani. Spesso non considerano l'effettivo impatto nel contesto di successiva applicazione. Altrettanto sovente risentono di influenze di lobby a matrice reazionaria, interessate all'immodificabilità di certi assetti. A fronte dello sventolio di manette e sanzioni penali, scioperi di siti web oscurati per l'occasione e cortei virtuali hanno testimoniato la vastità della platea dei dissenzienti e intralciato il completamento della manovra avviata oltreoceano a contrasto della pirateria digitale. Il vero problema è il conflitto di interessi in gioco. In questo caso, entrambi gli schieramenti accampano ragioni, i diritti sono altra cosa, a suffragio dei rispettivi atteggiamenti. Non è facile mettere d'accordo chi dice di voler tanto e chi risponde di pretendere a costo zero. Si potrebbe cominciare individuando un prezzo equo per prodotti e servizi di interesse collettivo, dando una spallata tanto agli esosi speculatori quanto agli irriducibili scrocconi. Le apps dei moderni telefonini, vendute a pochi centesimi, sono uno spunto da non trascurare. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'editoriale di Umberto Rapetto, Autori divisi nella rete, dal magazine 7 del 26 gennaio.